24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Vogliamo iniziare anche noi così, così felici, come ha finito ieri Alfano, Alfano. La convention del nuovo centrodestra, hanno finito così, ballando tutti happy. Potete vedere su, sulla rete Alfano, ballare questa di Pharrell Williams. Ve lo vedete Alfano? Because I'm happy. Silvia Brasca, balla, dai! Because I'm happy! Te lo vedi Alfano col pelatone lì, eh? E purtroppo sì! L'hai visto magari anche, È una delle più brutte. Dai, che l'Inter ne ha fatte 4, non succedeva dal 72, balla! Salutiamo anche Federico Novella subito. Federico, buongiorno. Forza, tu balla. Beh, fermati un attimo in tangenziale lì, stai andando a Mediaset. Ma sono a Sesto San Giovanni, cosa ballo? Sesto San Giovanni è la mia città natale, cosa ci fai a Sesto San Giovanni? Sei entrato qui? Sto facendo benzina, sono a Bologna. Vabbè, se trovi qualcuno, chiedigli un parere, insomma, su Alfano magari. Sì, è una bella immagine. Svegliarsi con questa immagine è bellissima. Di Alfano che balla. Forza, forza! Ha finito la convention del nuovo centrodestra così, tutto felice, felice. Allora, signori, inizia oggi ufficialmente la 50ª, bello numero tondo, settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché la 50ª settimana decisiva per l'abolizione delle province. E qui con Miriam Lucchetti che balla, Dopo mettiamo il video, E Peter Bescapè che balla, Poi mi mette... Peter, stai con i bottoni, le mani sui bottoni, perché sennò i microfoni qua. Possiamo aprire il Parlamento? Dai. A un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti. No, ma l'abbiamo messa perché davvero c'è la convention del nuovo centrodestra, è finita così, con era finita ieri e Alfano cantava con tutti. Con tutti i suoi candidati. Allora, vi ho già presentato Silvia Brasca del TG della 7. Eccoci ancora, Silvia, siamo qua. Niente, hai il fiatone. No, perché stavi ballando, non lo so. Ho detto è scomparsa, è andata a bere perché ha ballato troppo. Ci sei. E il nostro Federico Novella, ha fatto benzina? Tutto a posto? Federico? Non si sa, ma niente, doveva fare benzina, vedi? Ha fatto benzina a Sesto San Giovanni, boom! È subito caduto tutto, cara Silvia. Allora, di che dobbiamo parlare? Di cosa vuoi parlare, ma, Silvia? Dai, di Dell'Utri? Penso che tutti si sono arrabbiati a leggere il Corriere della Sera questa mattina. Mi sono arrabbiato. Perché ho dormito 4 ore. mi sono arrabbiato perché ho dormito 4 ore e ero già arrabbiato. Quindi qualsiasi cosa mi faccia, qualsiasi cosa da leggere mi fa arrabbiare. Ah, sulla sanità, no, ma intanto. Ne avrai da dire, Rossini. Ne avrò da dire. Federico l'abbiamo recuperato, sì. Eccoci, ci sono. Diesel, benzina, cosa hai fatto? Ho fatto benzina, no, poi ho mollato il telefono per cercare di imitare Alfano, il movimento d'anca di Alfano. Ecco, che immagine penosa. Che bello, eh? Che immagine penosa. Oggi i giornali dedicano tutti chi una pagina e mezza, per qualche particolare in più, sull'addio di Paolo Bonaiuti a Forza Italia, anche questa su. E poi c'è Fare Williams, insomma, il livello dei giornali è questo più o meno. Tu, Federico, di che vuoi parlare? Ma diciamo di cose magari che interessano un po' di più alla gente, per carità, rispetto per Paolo Bonaiuti, però oggi sì. Io per esempio parlo di nomine e poi torniamo ancora sugli stipendi d'oro, eccetera. Le nomine, Leni, le famose nomine, Finmeccanica. Ma devo dire che anche questo, secondo me, quelli che stanno prendendo la metropolitana non è che sono proprio. Però oggi è il gran giorno delle nomine. È il giorno delle nomine. Tu, Silvia, hai il tuo nome da spendere? È il giorno delle nomine. Però aspetto le quote rosa, devo tirare fuori anche eccola la lì. Severina, insomma. Eccola lì. Ecco, Renzi pare che voglia tante donne anche qui nei posti che contano. Secondo te è giusto, Silvia, da donna, che ne pensi? È giusto? Penso che forse sia un aiutino che va fatto perché ci si abitui. Poi dopo no, io non sono favorevole alle quote rosa, però è un aiutino che male non ha fatto, una questione d'abitudine, perché tra l'altro appunto vale anche, dipende dagli ambiti, nel giornalismo siamo pieni di donne, in altri davvero fanno davvero fatica. Quindi io non conosco, non ho tutta la realtà in mano per dire no, non servono il merito, la cosa. In altri ambiti le donne fanno davvero davvero tanto. No, ma infatti le donne, infatti l'aiutino va fatto. Le donne, l'aiutino, infatti, secondo le indiscrezioni di Repubblica, l'uomo Descalzi andrà a Leni al posto di Scaroni, l'uomo Moretti andrà a Finmeccanica al posto, vabbè, insomma, lasciando l'FS. Federico, tu hai dei nomi diversi, nomi di donne? Vuoi sapere cosa ne penso da donna? No, no, nel senso, secondo me no, basta che siano bravi, speriamo che non ci rifilino le figurine di donne messe lì per far vedere che il governo è vicino alla questione femminile. No, perché di donne manager brave ce ne sono, però certamente se deve diventare, come dire, un... no? Vada, purché non siano boiardi di Stato messi lì perché sono legati alla politica, che sia donna o uomo. Ma questo io lo davo per scontato, però. Che siano boiardi di Stato legati alla politica. Voglio dire, adesso sei solo. Ma voglio dire, ma tu vuoi fare una rivoluzione proprio? Ma dove sei? Sì, voglio fare una rivoluzione. Rientra in te, insomma, sei in voglio Italia, dai. Non ma almeno esagerare. Minimizziamo i danni. Preferisco i boiardi di Stato alle donne messe lì in quanto donne, no? Insomma, devono essere brave, allora le mettiamo lì. Oh, capito, Silvia. Invece altro che aiutini, questo. Basta che siano bravi adesso, uomini, donne. Dovrebbe essere così, dovrebbe essere così. Che si ripiazza la Severino, che secondo me è molto brava. La Severino. Dove l'hai tirata fuori? Ho sentito attenzione, che trovi castigati anche la Severino. Al nome anche da spendere, Silvia Brasca sotto sotto avrà chiamato Matteo Renzi questa notte. Pare che le nomine ci siano, insomma, sono ore convulse di trattative. Silvia Brasca, magari, caro Federico, ha questo nome, così, questo jolly. Sì, ma per esempio ma la Bonino, che fine ha fatto? La Bonino, attenzione, ma siete informati, tutti i nomi, no, non sia mai, insomma, anche Emma Bonino, e che fine ha fatto? È stata defenestrata dalla Farnesina, così, no? Magari potrebbero ripescarla, che ne sai? Non lo so, non stava tanto simpatica a Renzi, non l'ha confermata ministro degli esteri, però magari, chi lo sa. Vabbè, ma insomma, volete parlare un po' di Dell'Utri? Vogliamo parlare di Dell'Utri? O l'argomento è scottante? Cosa ridi? No, perché ovviamente perché la scelta di Beirut non vorrei fosse arrivata da Carlo Rossella, è uno dei posti, secondo me, Beirut, cari a Carlo Rosselli, quindi che vai a Beirut, ti prendi un drink al Grand Hotel, guardi il tramonto, inshallah, e l'ha fregato. Adesso no, non è così. Guardate che non è detta l'ultima parola, tra l'altro. Oggi Vittorio Feltri fa un articolo, un editoriale sul Giornale, nel quale dice quello che peraltro si era già detto i primi giorni, cioè che il Libano non riconosce il reato di associazione esterna alla mafia, questo nella convenzione di estradizione con l'Italia, e questo reato non c'era quando è stata firmata questa convenzione. E infatti Vittorio Feltri dice: se devo scommettere un euro, io scommetto che rimarrà a Beirut, rimarrà lì. Dipende dove, perché non è un posto, perché un conto se sei all'Intercontinental, un conto se sei altrove. Quindi diventerà come i Marò, dipende dove stai, cioè se stai libero a Beirut oppure se stai che ne so, in carcere. Non lo so, Federico. Ma io non ho capito bene perché i giornali hanno insistito così tanto anche coi titoloni sul fatto che stesse in un albergo a 5 stelle. Non ho capito, cioè se stava in un bed and breakfast cambiava qualcosa. No. Invece ci ho visto un po' di voler aizzare un po' la rabbia popolare, Te ne vai nell'albergo a 5 stelle, fuggi dalla giustizia e te ne vai pure nell'albergo a 5 stelle col drink di Carlo Rossella. Perché evoca quello? Perché appena si è saputo che era Beirut, sono andati tutti negli archivi a tirare fuori le foto di Fedicino Riva. Aprire il Corriere con la titolo, del Milan, perché finiscono così. No, vabbè, ma evoca. Allora, c'è da dire che un pochino di rabbia popolare c'è. Cioè, noi siamo un paese abituato a vedere queste cose processuali con zero di stacco, no? Si fa il tifo, no, Federico? È così, si fa il tifo. Anche noi giornalisti, però. Ma sì, ma certamente. A me sinceramente non frega niente, nel senso che assisterò a quello che è la decisione del processo. Tra l'altro pare che possa slittare, attenzione, la Cassazione domani, perché c'è un avvocato di Dell'Utri che è malato e quindi potrebbe slittare qualche giorno, ma comunque io assisterò a quello che è il verdetto, basta. Ma cioè, voglio dire, lo rinviano in appello e devono rifarlo e lo rifaranno, lo condannano e lo condannano, allora spero che vada a prendere. Apprezziamo però gli slanci letterari di questo fatto, con Alfano che deve dire l'abbiamo preso, sono degli slanci romanzeschi che non avremmo mai potuto concepire. Vabbè, ma ce l'aveva il dente avvelenato Alfano, Dell'Utri su Alfano un paio d'anni fa era stato durissimo, e quindi sono tutte, d'altronde era senatore, erano nello stesso partito fino a poco fa, quindi è chiaro che tutto questo conta. Però Silvia, a te questa cosa del cocktail sul lungomare di Beirut è un qualcosa che non ti... Ma no, perché Beirut a me evoca questa cosa, è un posto dove non bisogna andare, una bellissima città, ma mi fa strano davvero che fosse lì, cioè evoca proprio una, non è una città limpidissima, davvero non capisco, sono malato, questo, non lo so, se uno è malato, no, Beirut non è un posto dove andare, conosco posti con cliniche più preparate di quelle che si possono trovare a Beirut, è il solito pasticcio in una situazione intorno a Dell'Utri, insomma, non chiaro, non è mai stato chiaro, insomma, adesso ci sarà anche la rabbia popolare, però. Vabbè, noi non possiamo far altro che prendere un appello così dal mondo del cinema di qualche anno fa, no? Della mitica Anita Ekberg, no? E possiamo farlo nostro, prenderlo, rubarlo a Fellini e dire così. Marcello, come here! Marcello, come on! Te la ricordo, Silvia, citazione dal film? Anche perché lei si chiama Silvia, quindi. Allora la dolce vita, lo vogliamo rimandare. Federico, potresti iniziare anche tu oggi mattino 5 così, dai, con questa Marcello, come here, forza, dai, dalla dolce vita, Marcello, come here. Celeberrimo, celeberrimo passare. Vabbè, come finirà questa storia? Chi lo sa, anche questa. Staremo a vedere. Finalmente un giornalista informato. Sentiamo Silvia Brasca che ci dirà invece come finirà. No, ma ripeto, va basta che non finisca con il Marò e poi vabbè. L'appello di Vittorio Feltri è questo: caro amico Marcello, ti auguro di morire a Beirut tra 100 anni. Ecco, questo, cioè, quindi è già partita la campagna di questo tipo. Va bene. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Sì, e poi siamo con Silvia Brasca del TG della 7, Federico Novella, che è pronto a Mattino 5, ha fatto benzina e quindi è pronto ad andare in onda tra pochissimo. E siamo qui tra poco anche noi. 24 mattino. Forse non sono ben informato, ma non mi è mai capitato di sentir parlare della multa conseguente alla sottrazione di milioni di euro fisco, parlo di Berlusconi. Per ora si parla solo di qualche pomeriggio al mese ai servizi sociali, non è poco? Altro che forcone, ma che vuol dire di più di un forcone? Quanti Berlusconi avevamo nascosti in Italia, su che palazzi la democrazia? Palazzo Grassioli, Palazzo di qua, Camera del Senato, Camera del Parlamento, quanta gente corrotta sei dentro là. Caro Alessandro Milan, la Cassazione ha ammesso la fecondazione eterologa, ma hanno scoperto l'acqua calda, perché nel mondo la fecondazione eterologa naturale è sempre esistita. Di che cosa parliamo? Riapriamo finalmente i casini, lo Stato rifarebbe i quattrini, la strada non avrebbe malandrini. Ma io non ho parole, io sentire delle cose così, ma sembra che ci hanno preso per dei deficienti. Berlusconi che va a fare assistenza agli anziani. Ma fatemi il piacere, ma io non so, questo è un mondo di pagliacci. Ditele, raccontatele altre. Brunetta, guarda, te lo voglio proprio dire in milanese, a te sei proprio un professore. Hai detto che ci sono 200 milioni di italiani che hanno votato Berlusconi. Beh, a parte che gli italiani sono 60 milioni, ma questo è un dettaglio, no? Ma oh, ma le hai proprio contate tutte queste schede? Ma te sei proprio un professore. Ma a Milano sai cosa dicono anche? Ma va a cagare con la buca. Ergo, non dire stronzate. Vabbè, insomma, i nostri ascoltatori, cara Silvia Brasca, sono un po' così, eh. Senti Alfano, guarda Alfano che balla, no? Federico, io me lo vedo proprio nella mente. La febbre del sabato sera, diciamo. Più o meno è così. Mi è sembrato di vedere anche Schifani agitarsi. No, ti prego, no. L'ho visto, non riesco a cancellarlo dalla mia vita. No, la mossa di riporto di Schifani, no. Non posso immaginarla. Per me Silvia Brasca è stata costretta dal direttore Mentana a farne un pezzo, no? Di la verità, Silvia, che tu ne hai dovuto fare un pezzo anche al TG, È svenuta, vedi, ha sentito la parola direttore e ha messo giù. Sembra che ormai non c'è un politico che non debba fare il giovane. No, esatto. Mia, o che vai in bicicletta o balli oppure fai il salto in lungo. Ma chi è che ha fatto il salto in lungo? Aspetta. Ma domani troveremo qualcuno che fa il salto in lungo. Ridateci Andreotti, che ha la domanda. Ma lei non ha mai fatto sport? Disse: tutti i miei amici che hanno fatto sport sono morti. Esatto. Cara Silvia, vero che hai dovuto fare un pezzo sull'Happy di Alfano? Di la verità, dai. No, l'ho fatto sullo scambio Guccini, Leonard Cohen, Grillo Pizzarotti. Adesso mi sa che dovrò farlo anche su Alfano. Onore a Bonaiuti, lì ballavano, perché adesso arriva Bonaiuti, Bonaiuti, basta questo per ballare così. Vabbè, vi annuncio, cari italiani e cara Silvia, caro Federico, che Angela Merkel ha fatto un'improvvisata a Pompei, è arrivata e ha pagato il biglietto lei e ha pagato il biglietto anche per la scorta. Ma perché dobbiamo farci dare ste lezioni da... Ma adesso io dico, noi ci vogliamo anche un po' del male, Federico, no? A scrivere queste notizie, guarda. guardate qua, è arrivata, ha pagato il biglietto, sì, ha pagato il biglietto alla scorta, ma chi se ne frega? Cioè, perché secondo voi se Renzi, non so, Renzi va in Germania a visitare un museo e dicono deve pagare il biglietto, che non lo paga, se vuole lo paga, se invece sono sì, gentili. Ma anche se la scorta se lo paga da solo, ma non cambia niente. Ma sì. Sono un po' il provincialismo, un po' di provincialismo. Eh sì, dobbiamo far vedere così, no? I tedeschi, sì. I tedeschi sì che pagano tutto, i tedeschi sì che sono, Silvia, i tedeschi sì che sono onesti, e invece noi no? In generale, però. In generale è vero. Direi. È un nazionalismo al quale questo non mi accorgo, in genere i tedeschi sono qua. Più onesti. Prima pagina del giorno, visita sorpresa, prima notizia è la soprintendente e naturalmente ha pagato il biglietto come ogni altra turista. Eccola qua. Pagina 8, guardala qua. Vestita come mi nonna, come Madonna? No, come mi nonna. Ah, come tu nonna, ho capito male. Come Madonna, no, è strano. Sì, bravo. Prima abbiamo parlato di quote rosa, hai capito? Quindi adesso la Merkel è vestita come mi nonna, se vogliamo mettere dentro anche certi titoli di Libero. No, oggi poi Libero. Non volete le quote rosa, oggi dai. Libero non esce, è lunedì e quindi non te lo posso leggere, la prima pace. No, però vorrei adesso tornare un attimo a seri, non so, magari Federico ne parlerai anche nei prossimi giorni, questa vicenda dello scambio di provette che c'è stata al Pertini di Roma, per cui una coppia che è andata a fare la fecondazione in vitro, insomma, le hanno comunicato, sì, aspettate due gemelli, ma non sono... Insomma, è una fecondazione eterologa di fatto, anche se in Italia è vietato. Cioè, abbiamo scambiato le provette e quindi lei attende dei figli biologicamente, non sono di suo marito. Questo è molto, molto in sintesi la storia. Cara Silvia, non è una decisione. Pare che la donna abbia deciso di tenere comunque i figli e dire: sono, come dire, li sto portando in grembo, sono i miei bambini, anche se biologicamente non sono di mio marito. È da brividi anche perché si sa, insomma, che quando si arriva che con la fecondazione che finalmente si riesce a essere incinta, cioè pensare che non è andata, cioè non sono di suo marito, ma non sono neanche suoi biologicamente, proprio hanno impiantato l'embrione di fecondato di un'altra donna. Credo che per la legge siano suoi comunque, sì, no? Certo, no, è una questione, è una decisione, come dire, umana, da prendere, nel senso. È comprensibilissima la cosa di tenersi. Ho letto che sono psicologi marito e moglie, quindi spero che abbiano intorno anche un supporto, perché è davvero dura, aprirà le polemiche su questi metodi ancora, ma insomma. Sì, sui metodi o sulla sicurezza, insomma, pare che sia stati scambiate le provette con una coppia che aveva un cognome simile, cioè una cosa abbastanza clamorosa, no? Perché insomma dovrebbe esserci un controllo, no, Federico, negli ospedali in cui ti chiedono la data di nascita, ti chiedono il nome, cognome. Ma purtroppo infatti questa storia ci ricorda che anche i temi etici su cui ci sono delle battaglie di principio, sacrosante o meno, vanno calate, ahimè, poi nella situazione reale dell'amministrazione pubblica italiana, sanitaria in questo caso, che ti fa questi scherzi terribili, terribili. No, ma sono assolutamente terribili, devo dire, questa coppia ovviamente sta vivendo, sì, come dice Silvia Vasca, sono una coppia di psicologi, non per questo, insomma, non sapranno vivere e accettare questo dramma in modo migliore per forza, però certo, forse hanno, dice Silvia, gli strumenti per affrontarla in maniera diversa, no? Certo, non è una bella botta, ecco, in tutto questo. Sì, però riconduce a un dato terribilmente umano, che è quello dell'errore. Mm-hmm. In una pratica, quella della fecondazione assistita, dove tutto è davvero fatto di percentuali di scienza, e qua poi dopo si riconduce a un dato che c'è niente a che fare con la scienza, ma con l'essere umano che sbaglia. È chiaro. Allora, io mi devo fermare, ringrazio Federico Novella e Silvia Brasca. Qualcuno ci ricorda che ha visto Alfano ballare, ricordava la Bindi che ballava la Macarena. Caro Roberto da Modena, la ringrazio per questa immagine che ci dà in chiusura, e andiamo con una certa depressione al giornale radio.

è stufa di prenderle, cito il titolo di prima pagina del giornale, tanto che il SAP, uno dei sindacati di polizia, pagina 2, dice ai magistrati: venite in piazza con noi per arrestare direttamente i violenti, perché altrimenti poi l'identificazione è difficile. Infatti, scrive il Messaggero, Roma caccia i vandali del corteo, indagine sul video della gente. Certo, la caccia non è facile. Va bene, cronaca, che dite di Angela Merkel? Io non lo so, noi italiani ci facciamo sempre un po' del male. Comunque tutti i giornali raccontano, addirittura il Quotidiano Nazionale l'ha messo in prima pagina, Angela Merkel è arrivata a Pompei, era a Ischia, deve andare a Ischia per il riposo, le ferie pasquali, si è presentata a Pompei, alla biglietteria con la scorta, prego tu e tre biglietti, siamo in tre, non so, in quattro, cinque, ha pagato il biglietto. Allora, scandalo, i giornali italiani, guardate, è arrivata la Merkel e paga il biglietto, il Messaggero, Merkel a Pompei paga i biglietti della scorta. Poi gli si avvicina, quando si è sparsa la notizia che c'era la Merkel, è arrivata la direttrice degli scavi, è arrivata tutta in fretta e furia, vuole essere accompagnata, no grazie, faccio da sola, con una cartina, è andata a Pompei. Una cosa normalissima in tutti i paesi del mondo. In Italia fa notizia, perché ovviamente, figurarsi. Va bene, siamo al momento della premiazione dell'articolo più inutile scovato sui giornali. Siamo al momento della carta costa. Oggi vince Paolo Mastrolilli, che sulla stampa dedica una pagina a un tema drammatico. Alla fine di un mito americano, i ragazzi non mettono più i jeans. E io quando l'ho letto ho detto, ma perché non li mettono più? È un dramma su cui la stampa si concentra per una pagina intera. La carta costa. 24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti, eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Allora, l'impostazione che vorrei dare alla puntata di oggi non è tanto discutere se siate o meno a favore dei matrimoni omosessuali o non è, e poi certo discutiamo di questo, se volete ditemi la vostra, non è tanto se siate pro o contro la fecondazione eterologa, ricordiamo che questa tecnica è vietata in Italia, ma la scorsa settimana una sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che in caso di infertilità assoluta della coppia è possibile, è consentita la fecondazione eterologa. Ecco, ma l'impostazione che vorrei dare alla puntata è più quest'altra. È giusto secondo voi che in un paese dove c'è un Parlamento che sembra di fatto abbia un po' abdicato dal compito di affrontare anche quelli che sono i cosiddetti temi etici che coinvolgono la società, siano i magistrati, i giudici, attraverso sentenze a scrivere di fatto le leggi dello Stato? A Grosseto, per esempio, c'è stata polemica la scorsa settimana perché un giudice ha ordinato all'anagrafe del comune di scrivere nel registro il matrimonio tra due uomini che si sono sposati a New York, e il giudice ha detto non c'è nessun motivo che impedisce che questo matrimonio di fatto omosessuale possa essere registrato anche in Italia. È come, di fatto ha istituzionalizzato il matrimonio omosessuale, che in Italia non c'è. Ora lì il procuratore capo ha fatto ricorso contro le decisioni di questo giudice, quindi questo fa capire quanto il dibattito ci sia anche tra magistrati. Comunque ne vogliamo discutere con la professoressa Lucetta Scaraffia, che torna con noi ospite, spesso nostro ospite, docente di storia contemporanea alla Sapienza e scrive sull'Osservatore Romano. La saluto, ben ritrovata professoressa. Buongiorno, buona giornata. Saluto anche il senatore del PD Sergio Lo Giudice, buongiorno senatore. Buongiorno. Eccoci. A tutti gli ascoltatori. Lei si è sposato anche lei a Oslo, però in Norvegia, nel 2011 con il suo compagno. Ha fatto la stessa trafila, cioè ha richiesto in Italia di scrivere il matrimonio, oppure no, non l'ha tentata questa via? Ma guardi, io non l'ho fatto personalmente, perché nel momento in cui io mi sono sposato c'erano già in corso una serie di ricorsi contro mancate trascrizioni, c'era un iter avviato che si stava incamminando verso quello che vuole essere poi il culmine di questa serie di ricorsi, che è la Corte Europea dei Diritti Umani, E quindi in quel momento io insieme a altri abbiamo ritenuto di non affollare, diciamo, la pratica. Naturalmente se il tribunale di Grosseto dovesse avere la meglio sulla procura di Grosseto e sì, quindi dovesse essere respinto il ricorso del PM contro l'innovativa sentenza del tribunale che ha chiesto ordinato al comune la trascrizione nella registro anagrafico del comune di un matrimonio, ci saranno molte case, molti casi simili. Ma senta, senatore, lei che ne pensa del fatto, cioè non è per qualcuno, leggevo per esempio Marcello Veneziani la scorsa settimana sul giornale dire ma allora aboliamo il Parlamento, chiudiamo Camera e Senato, tanto su questi temi, su alcuni di questi temi decidono i magistrati attraverso sentenze, no? Non sono naturalmente d'accordo sul fatto di chiudere il Parlamento, però sicuramente il Parlamento dovrebbe fare una bella riflessione, perché sta abdicando al suo ruolo in un settore in cui c'è evidentemente una fortissima innovazione normativa sia a livello europeo che anche a livello di legislazione comunitaria e quindi vincolante anche per la stessa Italia. E sta lasciando alle corti di fatto modificare le leggi e di legiferare. Ora, ben vengano le corti quando si pongono a difensore di diritti fondamentali negati anche dalle stesse leggi dello Stato, ma questo fra le altre cose non solo lede la dignità del Parlamento, che abdica di fronte a temi così importanti per le persone, ma produce anche una situazione schizofrenica, non ordinata, per cui tu ti trovi ad avere sul territorio nazionale una gestione dei diritti fondamentali delle persone a macchia di leopardo. Ora, se c'è un punto su cui è necessario che ci siano delle norme nazionali, o quelle che riguardano i diritti generali delle persone che non possono essere considerati in modo diverso da Bolzano a Siracusa. Sì. E quindi sarebbe molto importante che il Parlamento, anche di fronte a quello che sta accadendo in questi giorni, avesse uno sussulto di dignità e dicesse e decida qualcosa. No, ma anche perché, voglio dire, lei dice delle innovative sentenze, però il rischio è, e vorrei su questo coinvolgere la professoressa Scarafia, che laddove le sentenze sono poi a favore di quello che uno pensa, di quelle che sono le convinzioni personali, sono innovative sentenze, laddove sono contrarie invece sono sentenze pericolose. Il dato di fatto è che mi hanno insegnato da quando eravamo in terza media che c'era la separazione dei poteri, e invece qui c'è di fatto una magistratura che per sentenze stabilisce alcuni argomenti che dovrebbero essere di competenza stretta del Parlamento, che però fa poco o nulla, o no, professoressa Scarafia? Ma io penso che il Parlamento qualcosa fa, anche non fare è, se vuole, una scelta ben precisa, per esempio riguardo a questo problema dei matrimoni omosessuali, però penso che queste non sono decisioni che riguardano l'ambito strettamente legislativo, ma sono delle decisioni che riguardano molto proprio questioni fondamentali della società, questioni che stanno alla base della cultura antropologica di una società. Ora, su queste questioni non può decidere un tribunale, deve decidere tutta la società italiana, e naturalmente il Parlamento rappresenta in modo elettivo la società italiana, ci deve essere un dibattito che coinvolge tutta la società e la società che lo decide. La legge 40, per esempio, che è una legge, come lei sa, smantellata continuamente dalle decisioni dei tribunali, però dopo tutto una legge votata in Parlamento e confermata da un referendum. Sì. Ora c'è, mi sembra, come dire, una competizione fra potere legislativo e potere esecutivo e potere giudiziario per diciamo così impadronirsi un poco del potere, diciamo così, però di fronte, la vita, cioè, per esempio italiani. Il ricorso della Corte Costituzionale è stato sulla legge 40, per l'appunto, no? Sì, che la legge 40 vieta la fecondazione eterologa, però un magistrato, la Corte Costituzionale, stabilisce che laddove c'è un ricorso, laddove c'è un'infertilità assoluta, in questo caso prevale il diritto a voler essere genitori, e quindi si viola la legge 40, si modifica la legge 40, si smantella, dice la legge 40 non vale in questo caso, cioè quel magistrato sbaglia perché fa un'invasione di campo, secondo lei? Perché quel magistrato ha dato naturalmente nella Costituzione ovviamente non c'è scritto nulla rispetto all'inseminazione eterologa, che non era, diciamo così, pensabile in quel momento quando è stata scritta. Adesso il magistrato ha dato un'interpretazione della Costituzione sua personale, non ha trovato scritto nella Costituzione una frase che riguardava quello, è un'interpretazione interpretazione. Ora, questa interpretazione cambia qualcosa che è strutturale nella cultura e nella tradizione italiana. Quello non lo doveva fare una magistratura, lo doveva fare appunto un consesso elettivo degli italiani. Penso che ci sia veramente uno spostamento dell'area decisionale, perché mentre c'è una questione molto forte in corso, che mentre diciamo così, finora almeno, finora, poi tutto può cambiare, forse è già cambiato, ma finora l'opinione media degli italiani che si riflette sul Parlamento era, diciamo così, di tipo piuttosto conservatore, chiamiamolo così, non favorevole a queste innovazioni, invece delle minoranze molto favorevoli, appoggiandosi a dei tribunali, a dei giudici, hanno cercato di fare un piccolo colpo di Stato nei confronti della maggioranza, Piccolo colpo di Stato, piccolo colpo di Stato, senatore Lo Giudice, anche non fare è fare, secondo la professoressa Scaraffia, cioè evidentemente se la maggioranza del Parlamento non vuole i matrimoni omosessuali perché si pensa che così si rappresenti la maggioranza della popolazione, anche non fare, perché bisogna farli per forza? Ma guardi, va da sé che anche non fare è un fare, e in certi casi sarebbe meglio non fare che fare, per esempio quello che io penso che avrebbe dovuto fare il Parlamento nei confronti della fecondazione assistita, dove facendo ha prodotto un'aberrazione giuridica che poi è stata smontata pezzo su pezzo dalla Corte Costituzionale, oltre che dalla Corte Europea dei Diritti Umani. Io vorrei dire una cosa dal commento di quello che diceva la professoressa Scaraffia. Io sono totalmente in disaccordo con la sua impostazione. Difendo, va da sé, sono anche un parlamentare, e la necessità che il Parlamento intervenga per normare quelle situazioni in cui c'è bisogno di dare una legislazione organica, però il Parlamento deve intervenire per fare delle leggi, ma le leggi che fa il Parlamento, e questo è il bilanciamento dei poteri, devono essere conformi alla Costituzione, altrimenti entra in ballo la Corte Costituzionale. E pensare che il fatto che la Corte Costituzionale bocci una legge approvata dal Parlamento in quanto contraria alla nostra Costituzione sia un colpo di Stato, un po' inquietante come interpretazione, ecco, perché significa che noi vogliamo dare al Parlamento un potere assoluto di superamento dei vincoli della Costituzione. E si va di bene, quando prima si presentava questo come una sorta di ribaltamento di ruoli fra maggioranza e minoranza, ma le leggi, il diritto alla Costituzione sono lì anche e soprattutto A difendere le minoranze. Senatore Lo Giudice, lei stesso, quando il magistrato di Grosseto che ha detto iscrivete, trascrivete nel registro di Stato civile di Grosseto questo matrimonio tra omosessuali, anche lei ha dichiarato è un precedente unico per il nostro paese. Ora, già il fatto che sia un precedente unico, cioè che un unico magistrato, o che siano pochissimi magistrati che hanno fatto ho pensato di fare un'azione del genere, non fa supporre che, voglio dire, è stata una decisione, come dire, un po' improvvida di un magistrato che ha interpretato la legge a modo suo? Un magistrato ha nel suo ruolo quello di interpretare la legge, ogni tanto lo fa bene, ogni tanto lo fa male, bisogna dare atto che esiste un principio di discrezionalità, di libero convincimento di un magistrato rispetto a una sentenza che deve emettere, e poi adesso vedremo se il giudice di Grosseto avrà ragione oppure se il ricorso contro quella sentenza sarà approvato. Ma attenzione, se parliamo di sentenze di singoli magistrati, come dire, possono fiorire sentenze e interpretazioni di vario tipo. Io mi chiederei maggiore rispetto per le sentenze della Corte Costituzionale, che rappresentano non un'interpretazione arbitraria della Costituzione, ma la necessità di un suo adeguamento ai nuovi tempi, perché la Costituzione non può essere considerata corpo morto. Ma vede, alla stesso motivo lo faccia il Parlamento, cioè capisce, è proprio questo il tema. È proprio questo il tema dal quale, tra l'altro, voglio partire. Prima però devo andare un attimo in pubblicità, cioè lo faccia il Parlamento. Se alcuni magistrati, recependo in alcune sentenze il fatto che la società sia cambiata, vogliono lanciare il messaggio che è perché la Costituzione deve essere anche cambiata, perché il Parlamento si deve muovere su alcune tematiche, lo faccia appunto il Parlamento, cioè questo dovrebbe essere in un paese normale. Certo, c'è da dire d'altra parte che il Parlamento su alcune tematiche è proprio immobile, più che non voglia fare. Quante volte si è parlato di legge sul fine vita? Se ne parlava quando c'era il caso di Eluana Englaro, doveva essere questione di giorni. Sono passati 5-6 anni, quanto sono passati? Non si è mossa una foglia. 24 mattino. Siamo qui alle 8:35 minuti, mi scrive un ascoltatore via SMS: non è vero che il Parlamento abbia abdicato la sua funzione rispetto ai temi etici, le leggi le ha fatte, il problema è che non piacciono la magistratura e parte dei media, così ci scrive Andrea da Como. Non lo so se è così, professoressa Scaraffia, però le chiedo, nello specifico, per esempio, vietare a quella coppia che ha una infertilità assoluta di avere un figlio perché la legge 40 vieta la fecondazione eterologa è una decisione giusta, oppure ha fatto bene la Corte Costituzionale a dire no, non è così? Secondo me intanto bisogna capire, perché quando l'infertilità assoluta è un concetto molto vago, guardi, pensi che per esempio quella coppia di Torino di cui è stata stabilita sempre da una sentenza del Tribunale, coppia di Milano recentemente, che poteva considerare sua una figlia che è stata partorita in India da una donna indiana, sì, con un ovulo comprato e un utero comprato, insomma, e che può essere considerata loro figlia, ecco, questa sentenza ed era considerata, diciamo così, infertilità assoluta quella della coppia che l'ha generata, diciamo così, mm-hmm, in questo modo, la moglie, insomma, la moglie, la candidata madre di questa coppia aveva 54 anni. Ora, mm-hmm, a 54 anni nessuna donna è fertile e anche con difficoltà può sopportare una gravidanza. Quello però il caso dell'utero in affitto è ancora una sì, diciamo, una, vabbè, comunque, un metodo di procreazione ancora più estremo. Il concetto di infertilità, certo, nessun giornale ha fatto il conto che quella non era un caso di infertilità assoluta, perché lei aveva 54 anni, era un caso semplicemente di limite naturale, che la natura dà alla fertilità femminile, cioè il problema è di accettare dei limiti, il limite dell'età, che è molto forte oggi per le donne, è un problema perché le donne fanno i figli sempre più tardi, spesso quello che si chiama infertilità assoluta per le donne è solo vecchiaia, cioè vecchiaia nel senso, diciamo, certo, per vecchiaia rispetto alla riproduzione, no? Rispetto alla vita, quindi anche su quello bisogna riflettere molto. Ora, io penso che il problema dell'inseminazione eterologa non è solo un problema di fare un bambino per una coppia che lo vuole, è un problema che scardina il concetto stesso di filiazione, cioè i figli fatti con inseminazione eterologa in genere avranno o non riusciranno mai a sapere, o avranno enormi difficoltà a sapere chi è il loro genitore biologico, che è da considerarsi un diritto di un essere umano saperlo, per vari motivi, anche per motivi medici, cioè genetici, adesso è sempre più forte, no? La medicina che si basa su categorie genetiche, quindi per loro è un problema molto forte. Poi per i figli non sapere chi è il loro genitore biologico è un problema psicologico, l'hanno sempre detto, sì, anche gli, sì, psicanalisti, molto forte. Ecco, ma il magistrato che scardina questo è un magistrato che sbaglia, secondo lei? Secondo me sì, perché intanto perché era stato deciso da una legge votata dal Parlamento e confermata da un referendum, e non si capisce perché il magistrato decida, lui non piace, vabbè, ci fa tanto piacere, però la legge esiste. È molto diverso il caso della legge 40 dagli altri problemi che ha citato prima il senatore, che sono il fine vita, per esempio, o il matrimonio omosessuale. Mentre sulla legge 40, sul problema dell'inseminazione, cioè la legge 40, che può piacere o non piacere, ma è là, è stata votata e confermata da un referendum. Sugli altri temi, il fine vita e il matrimonio omosessuale, effettivamente il Parlamento italiano non si è mai pronunciato. Questo per un motivo molto chiaro, che in Italia è talmente polarizzata la discussione che non è, qua, è un braccio di ferro, non è una discussione. È vero, io penso invece che bisognerebbe avere il coraggio da parte di tutte e due le parti di mollare un po' questa polarizzazione e affrontare veramente il problema così come si pone oggi. Purtroppo questi tematiche vengono affrontate sempre, sì, come un po' un duello. Mi fate sentire qualche, sì, ascoltatore. Silvia da Firenze ci ha chiamato. Silvia, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Il mio intervento non riguarda forse l'argomento di cui state parlando in questo momento, ma riguarda un aspetto che conosco abbastanza bene perché io faccio l'avvocato. Allora, la mia impressione è forse tecnica se non tecnicista, però due aspetti brevissimi. Il primo è che nel nostro ordinamento i magistrati hanno comunque danno un'interpretazione della norma che è comunque soggetta a vari gradi del giudizio. Quando su una legge si pronuncia la Corte Costituzionale non esprime un parere, esprime una valutazione in ordine al rispetto o meno della Costituzione. Il fatto che il Parlamento non intervenga su certi temi o sbagli perché non mette in campo leggi conformi alla Costituzione non significa che il magistrato esprima un'opinione sbagliata. Cioè il magistrato diciamo richiama all'ordine, se posso usare un termine non proprio tecnico. Esiste una norma superiore a cui tutti i poteri dello Stato devono conformarsi. E quindi sì. E questo è il primo punto. L'altro è, mi permetto, il nostro Parlamento può o meno legiferare su certi argomenti, ma l'Italia fa parte di un consesso internazionale, in primis la Comunità Europea. La Comunità Europea sta dicendo ormai da tempo che possiamo, se non lo riteniamo, anche se ce lo consiglia caldamente, uniformarsi alle normative cioè dei vari Stati europei sui diritti personali, ma anche se non lo facciamo, i diritti dei cittadini non italiani ma europei devono essere rispettati anche dall'Italia. Va bene. Questo significa. Quindi lei dice, per concludere, Silvia, perché altrimenti non lascio spazio agli altri ascoltatori, che bisogna uniformarsi anche, ci si può uniformare alle normative europee, però non è così semplice, evidentemente, se ogni paese sceglie su queste tematiche. Alessandro da Bologna, buongiorno Alessandro. Salve, buongiorno. Buongiorno a tutti, volevo intervenire solamente sulla prima parte per quanto riguardava la scelta del, diciamo, il fatto che praticamente la professoressa diceva all'inizio sarebbe il Parlamento che dovrebbe legiferare su queste questioni. Ed è vero, però è vero in parte, almeno per quanto ci riguarda, perché chi ci rappresenta in Parlamento non rappresenta, a mio avviso, l'espressione diciamo diretta di quella che è il, vabbè, così. Ma questo perché? Perché i parlamentari non sono scelti, cioè il problema della legge elettorale. E beh, così però è da come ne usciamo, Alessandro? Cioè lei non considera legittimato quel Parlamento perché la legge elettorale non le ha permesso di. Non è che non sia legittimato, bisogna vedere di che diciamo che espressione rappresenta, di che parte. Ma rappresenta i partiti che hanno vinto le elezioni a maggioranza, cioè voglio dire. Poi lei non ha scelto le persone, questo sì, nome e cognome. Non le persone. Non abbiamo scelto chi ci possa rappresentare. Inoltre, ho capito, però rappresenta, come dire, anche una questione, mi scusi, anche quella della, comunque, di che questo tipo di leggi diciamo sono previste anche dall'ordinamento europeo al quale noi comunque ci dobbiamo questo è come diceva l'ascoltatrice di prima. Alessandro, la ringrazio. No, Sergio Lo Giudice, lei che è senatore considera questa obiezione di Alessandro sulla questione del fatto che non possiamo scegliere chi è lì in Parlamento, come dire, quindi insomma perché dovrebbero decidere per noi su questi temi? Ma guardi, io credo che noi dovremmo darci una bella legge elettorale in cui i cittadini possano decidere direttamente il nome dei loro prescelti, ma questo non può portarci a pensare che il Parlamento in carica non è legittimo da fare legge, altrimenti entreremmo in un cortocircuito istituzionale. Vorrei aggiungere una cosa rispetto alle osservazioni che facevano gli ascoltatori. Non solo il Parlamento in certi casi, non facendo le leggi, delega al potere giudiziario, ma accade anche un'altra cosa singolare. Resto sempre nell'esempio dei matrimoni fra persone dello stesso sesso. La Corte Costituzionale nel 2010 con una sentenza ha chiesto al Parlamento, ha detto che il Parlamento ha il dovere costituzionale di fare una legge che riconosca le unioni fra persone dello stesso sesso, scegliendo se farlo attraverso l'estensione del matrimonio o attraverso l'istituto giuridico equivalente. Lo scorso anno il Presidente della Corte Costituzionale ha rinnovato l'invito al Parlamento, quindi il Parlamento sta fermo anche in presenza di la Corte Costituzionale che dice fai tu, non costringere me a intervenire, fai tu altrimenti dovrò intervenire. Anche di fronte a questa sollecitazione il Parlamento. Ma le chiedo secondo esempio, nel 2012 il Ministro degli Interni, era allora Cancellieri, è stata costretta di fatto a emanare un'ordinanza che chiede alle questure di riconoscere il permesso di soggiorno ai partner omosessuali non comunitari di cittadini italiani con cui si sono sposati all'estero. Quindi l'ordinamento italiano è stato costretto a recepire la validità di un matrimonio contratto all'estero, anche in questo caso, perché altrimenti i giudici stavano intervenendo in modo, sì, in modo... Ma le chiedo questo, si deciderà, il governo Renzi come lo vede da questo punto di vista? Perché c'è un vice ministro che è Ivan Scalfarotto, omosessuale, però su questo per ora non ho visto passi in avanti. Ma noi stiamo lavorando in Commissione Giustizia del Senato in questo momento su due temi che riguardano, diciamo, le questioni etiche, un po' anche più di due. Uno è quello appunto che riguarda il tema coppie di fatto e unioni civili. Stiamo ragionando a una legge leggera per le coppie di fatto eterosessuali o omosessuali, e invece una legge più che riconosca, come la Corte Costituzionale ha chiesto, la pienezza dei diritti delle coppie dello stesso sesso. Io avevo proposto di farlo attraverso il matrimonio civile, sì. Ci sono altre proposte che propongono il modello tedesco, cioè dire un nuovo istituto giuridico equivalente al matrimonio, ma distinto da questo. Insomma, la discussione è in campo ed è aperta, in realtà è aperta da un po' di anni su questo tema. Io intanto voglio ringraziare la professoressa Lucetta Scaraffia e il senatore Sergio Lo Giudice del Partito Democratico, perché devo, grazie per essere stati con noi. Do la parola, ma dopo il traffico, a Dino da Padova. Ora il traffico, poi avremo con noi anche Antonio Ingroia, ex magistrato, sulla vicenda dell'Utri. Eccoci qui, Dino da Padova, che era con noi. Dino, buongiorno. Sì, buongiorno. Io intervengo ribadendo quello che ha detto l'avvocato precedentemente. È ora di smetterla di mistificare la realtà dicendo che le sentenze dei giudici violerebbero la ripartizione dei poteri. Sono invece l'esatta applicazione della ripartizione dei poteri, perché il potere legislativo non ha la facoltà di decidere alcune cose e poi di decidere l'esatto contrario. Un principio di logica dice che non può essere che una cosa è e contemporaneamente non esiste. Quindi se vi è una stratificazione normativa che prevede dei principi, il giudice non fa nient'altro che verificare la congruenza di una legge con questi principi ordine superiore. Grazie Dino, il dibattito ovviamente è aperto su questi temi, so che poi sono sempre molte, molte le chiamate, come vedete. Io però, per prima di concludere, voglio parlare, facciamo una puntatina sul caso dell'Utri, perché è il caso su tutti i giornali, il caso dell'Utri. Oggi c'è l'udienza in Libano, a Beirut, dove è stato trovato l'ex senatore che deve rispondere a 7 anni di associazione esterna alla mafia, e domani ci dovrebbe essere l'udienza definitiva in Cassazione. C'è l'udienza oggi in Libano per capire se potrà rientrare in Italia. Tra l'altro Repubblica scrive c'è anche un giallo, perché l'udienza in Cassazione domani potrebbe anche slittare, perché è malato uno dei giudici. Uno degli avvocati di Dell'Utri. Noi però vogliamo parlare di questa vicenda con il presidente di Azione Civile, ex magistrato di Palermo, Antonio Ingroia, che saluto. Dottore Ingroia, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, parliamo del caso Dell'Utri. Intanto le chiedo, per lei è ipotizzabile l'idea di una non fuga, come dicono gli avvocati, di essere andato a curarsi in Libano? Insomma, è difficile a crederci. Diciamo che ci sono tutti i presupposti e gli indizi della fuga per sottrarsi all'esecuzione della sentenza. Peraltro Dell'Utri non era nuovo a preparativi di fuga, perché era già avvenuto alla vigilia della precedente sentenza, si ricorderà, verso Santo Domingo. Io ero ancora in magistratura e facemmo un'indagine che evidenziava questa sua intenzione. Ma secondo lei quindi andava fermato prima? Beh, secondo me ancora una volta lo Stato si è fatto trovare impreparato. Era nell'aria che potesse accadere, era una sentenza annunciata, tutto ci fa ritenere che prelude una probabile condanna. Questo avrebbe pensato l'imputato. Bisognava preallertare alla frontiera per evitare che accadesse quello che è accaduto. Senta, dottor Ingroia, le chiedo questo: in Libano non esiste il riconoscimento del reato di associazione esterna alla mafia. Questo per lei potrebbe essere un ostacolo alla possibile estradizione? In tanti paesi, purtroppo, benché previsto nella Convenzione ONU contro la criminalità organizzata, tanti paesi non l'hanno introdotto e questo complica. Ho esperienza in altre vicende, ricordo il caso di Vito Roberto Palazzolo arrestato in Thailandia e soltanto di recente si è ottenuta l'estradizione, è passato più di un anno. Ma secondo lei potrebbe essere un problema effettivo? Cioè, perché oggi i giornali raccontano che secondo alcune previsioni potrebbe davvero non rientrare più per questo motivo dal Libano. Sì, secondo me costituisce un grosso rischio. In Libano non è previsto il reato dell'associazione mafiosa e se non c'è la cosiddetta doppia incriminazione, cioè la previsione dello stesso reato nei due paesi, non è un'impresa semplice, ecco perché bisogna stare assolutamente attenti e non farselo sfilare sotto il naso. Mi faccia capire, dovesse esserci una condanna e non dovesse esserci l'estradizione, secondo lei Dell'Utri potrebbe anche essere libero in Libano? Certo, certo che sì, e sarebbe una beffa per la giustizia italiana che prima ci ha messo 20 anni per arrivare a una sentenza e al 20° anno chi deve essere sottoposto all'esecuzione della pena invece rimane uccel di bosco fuori dall'Italia. Le faccio un'ultima domanda, è questa: lei si è detto contrario alla candidatura nel PD per le europee di Giovanni Fiandaca, giurista, perché dice è uno che nega la trattativa Stato-mafia. Perché è contrario alla candidatura di Fiandaca? No, io non dico che sono contrario, io ho stima e rispetto della statura come studioso di diritto penale del professore Fiandaca, dico che però è una scelta politica ben precisa quella del PD, perché sul piano giuridico è un conto le qualità di studioso del professore Fiandaca, altra questione è la scelta politica che fa il PD, perché il PD candida il professore Fiandaca. Sul piano politico la cosa più importante che si è, per la quale il professore Fiandaca è noto, è quest'ultimo libro che ha scritto, che è una vera e propria demolizione dell'impostazione del processo di trattativa, dove addirittura si arriva a una posizione in cui si dice che è giustificabile che uno Stato tratti con la mafia. È una scelta politica molto precisa da parte del PD che determina anche, a mio parere, isolamento e sovraesposizione ulteriore dei magistrati, in prima fila Nino Di Matteo, oggi più impegnati su questo fronte, in questo processo. Lei invece non si candida più, cioè la sua esperienza politica come la giudichiamo? Finita, conclusa? No, non è affatto finita. Io non mi candido in prima persona, ma il movimento politico che io presiedo, Azione Civile, oggi sostiene la lista per Tsipras e ci sono candidati del mio movimento politico che si presentano in quella lista, che è un'alternativa per un'altra Europa, un'altra politica. Va bene, intanto la ringrazio, grazie al dottor Antonio Ingroia, ex magistrato. Insomma, avete sentito, cari ascoltatori, tutt'altro che finita la vicenda dell'Utri, forse è solo che incominciata, perché, come ci ha detto anche Ingroia, c'è la possibilità davvero che rimanga definitivamente in Libano e anche libero in caso di condanna definitiva della Cassazione, perché, come ci ha spiegato Ingroia, non esiste nell'accordo di estradizione tra Libano e l'Italia il riconoscimento del Libano del reato di associazione esterna alla mafia, reato di cui deve rispondere l'ex senatore Dell'Utri, e siccome questo è il reato e l'accordo fu firmato quando questo reato in Italia manco esisteva, ecco allora che per esempio Vittorio Feltri oggi sul giornale scrive così: rifugiarsi in Libano è stata la scelta giusta e siccome non c'è questo reato, scommetterei che Dell'Utri trascorrerà il resto della vita in Libano. Così almeno è il parere di Vittorio Feltri, ma staremo a vedere. Già oggi Dell'Utri dovrà presentarsi davanti ai magistrati del Libano per cercare di capire se verrà convalidato questo fermo. La vicenda non è conclusa, state sereni, state tranquilli, state sereni, mi piace questo. Allora voglio salutare Miriam Lucchetti con Alessandro Marcotulli e Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè come sempre è in regia. Vi ci potete seguire anche su Twitter, Alino Milan, quello è il mio profilo, oppure 24 Mattino, così siamo anche su Facebook. E dunque ci rinnoviamo a domani 6:30 puntuali, razza di debosciati, non un minuto più, non un minuto di meno.